Non c'è, ma nella canale. Sembri fuori frequenza, non lo so, chi sei? Ok, mi senti adesso? Sì, adesso sì. Ok. Com'era andato? Lascia fare. Bassina la modulazione, cosa stai usando? Allora, mi va benissimo. Dico che quello che tu dico era questo. Ah, sì, via. Beh, non è la possibilità di mettere qualche, come si dice, qualche microfono più ampli, no? Sì, vabbè, ho trovato questo, segnale 7 abbondante, quasi 8. La modulazione normale, no? E si abbassa, normale. Da microfono normale, ecco, tutto lì. Infatti non ti avevo riconosciuto. Poco fa sicuramente c'hai il vetrale girato al contrario. No. La radio è buona, anche se è normale, non è, è perfetta, è perfettissima, tipo se hai 5 però non è amplificata, però da microfono normale ti ho detto è perfetta, bella, chiara, pulita, no, non ha nessun problema fra. Fai i 9 ESO, sono qua, sto aspettando l'inizio della partita, sono in stanza. Fai pure. E CR7 non si è sentito, ma sono giù. E beh fra, cos'hai agganciato? Adesso com'è? La radio è, non è cambiata praticamente, il segnale è salito a 9 qualcosa. Il segnale è salito a 9 qualcosa, ok, allora da 27 aiuto sera, no? Sì, sì, è il tuo segnale col K questo, 9 quasi 5. Ok, no, scusa che non ti ho sentito che ti ha abbassato il volume. 9 e 5 sì, da 7 a 9 e 5 quasi. Sì, non è il mio vecchio. Allora, c'era... Oh, ok. Saranno adesso 50 fa. Più o meno il tuo segnale, quello che usi normalmente, beh. Certo. Bene, bene, allora già funziona. Oh, me lo chiudo. È buona, E 5. Non è amplificata, fatto l'ho detto, però la tonalità è buona. La tua voce è normale, bella chiara. Ecco, adesso rifaccio, siccome questo qua c'ha l'attacco diverso, cioè quello a 5 punti. E adesso gli faccio un travestino, gli faccio, gli metto un M300 l'altro, o anche gli posso anche abbinare un po' l'altro. Sì, sì, sì, ma le mie più 4, più 5 si adattano a tutti, io ce li ho. Qualsiasi baracchino lo metto, vabbè, forse la mia modulazione, però ti hai visto come esce l'Elbex con le mie più 5, favoloso. Anche per me più 3 va bene, però si abbinano bene con i microfoni. Per non stare col microfono alla palma, mi. Qualcosa che non mi alzava neanche la ricetta del rosso, ricordavo che era funzionazione di fatto, però abbiamo aumentato la forma della stanza di niente, abbiamo aumentato il fatto, abbiamo aumentato la stanza fino a qua. Meglio, vabbè, qua trovate l'ingresso, la stai dando a lineare? Tappa. Sì, vabbè, cos'è? come quello che c'ho io della CTE. Che cosa? Lineare? Lineare cos'è? Transistorizzato o il VV131 stai usando? No, il VV131 sto usando, valvolare. Sì, 4 watt vanno bene, non era di più, se no ti satura la modulazione. 4 watt è ottimo, la modulazione è stabile, non distorce, va benissimo. Sì, a dire la verità, però adesso quando è staccato ho visto l'incremento, è un bel, non 6,7, 6,6, da 6 a 9 passi, a 9 più. Ecco, adesso è di nuovo collegato. 9, quasi 9,5 arrivi. Il segnale se è staccato è 6, il segnale 6 passi a 9,3, insomma, quasi 9,5. Ecco, sì, deixa vi. Ok. Sono già a 60. Ma 60 dove ti sto segnando? Dove volte metro esterno? Mi sembrano molti di più. Aspettamento apparecchio. Chiappa. No, Roswell, ciò. Attaccato. Cavolo. Da 6 a 9. Aumenta tanto. Chiappa. Te l'aveva detto quello là che erano nuove le valvole. Era nuova quella valvola che c'è dentro. Infatti proprio perché è nuovo mi sembra tanto, fanno 60 watt. Di solito un VV131 se è funzionante al 100% va più di 100 watt. Ecco. No. Da qua, tiro la manopola ma torna indietro. Ecco. Quindi così roba, quindi 60 roba. Sì, ma sto dicendo, lo strumento che hai collegato è affidabile, sì. Cavolo, è uno di quelli, è nuovo nuovo, della Raifa, quelli che ha incrociato. No, non si discute. Però sta dando troppo poco, io c'ho il mio, frate, la valvola non è nuova. C'ha un paio d'anni, usato poco, però ne da una tantina. Se la valvola è nuova, supera i 100. Quindi, insomma, lo sto dicendo perché io quando l'avevo comprato, il VV131 nuovo, sballato, attaccato, ho lasciato un paio d'ore acceso giusto per stabilizzarsi la valvola. Poi anch'io ho quello strumento della Raifa da rincrociarti, ho quello solo HF e poi ho quello che fa VU e HF. Sia con uno strumento che con l'altro dava un 95 watt. Mi sembrano troppo pochi. Sì, ce li ho anche io tutti e due. Io anche io ce li ho tutti e due. Sono VU e HF e tutto questo. Questo qua, non metto 1.18, 150 questo. Esatto, e c'hanno quella fare in gomma, quelli, quel rivestimento in gomma, quelli c'hai, che rimane quadrato. K, no, non rimane quadrato, rimane lungo. Rimane più lungo. C'era il quadrato ma non l'ho preso, ho preso quello più lungo. E io ce li ho gemellini, sono là. Uno fa le V e le U e l'altro fa gli HF. Gemellini, però non ce li ho collegati, sono dentro l'armadio, dentro la scatola ancora, figurati. Perché mi avevo tolto tutto, quindi li avevo staccati, però sono molto affidabili, molto precisi quegli strumenti. E quindi per quello sto dicendo, mi sembra un po' pochino. 60 watt mi sembra molto poco, e ne da 80 quel CTE che c'ho io, quello a MOSFET, come si chiama, che tu hai bruciato, il gemello di quello, ne da 80, con 4 watt d'ingresso, però vabbè, se è staccato non te lo posso far sentire, però quando l'ho provato, poi l'ho rimesso a posto, aveva un'ottantina di watt. No, ma è solo con questa radiolina mica per installarlo. Perché quando l'ho collegato al presidente mi dava distanza più 100 watt. Ma il presidente le dava più potenza, quindi 6, 7 watt, 8 watt. Non è che gliene puoi dare molto, perché il VV131 ha visto dietro, c'ha due attacchi. sino a 5 watt e poi sino a 10 watt, lì ti devi agganciare tu, dove sei agganciato tu, in quello da 5 o in quello da 10? Non ho capito, quello da 5 o quello da 10, quale? PV131 dietro, c'ha due attacchi, giusto? Sì, due attacchi c'ha, c'ha proprio per andare... Esatto, e poi c'è un pulsante rosso. Sì. E quel pulsante rosso dove ce l'hai? In basso o alta potenza? Ah, in basso ce l'ho. Ma lo sai che quello io l'ho fatto a te. Prova a metterlo in alta potenza. Quasi mi manca la ricezione. Manca la ricezione? Perché manca la ricezione? No, il mio non manca la ricezione. Quello è un... non me l'avevano anche detto, non ricordo come che lo chiamano, tipo una protezione, capito, per la potenza in ingresso, per la potenza in ingresso, io se lo metto con un baracchino che dà per dire 3 watt come te lo tengo una potenza bassa, uscita lineare. Se lo metto con, cioè al contrario, metto la potenza alta, se lo metto con un baracchino che doppio watt lo metto una potenza bassa. Quando quello non mi fa fare niente, non funziona niente. E allora ci hanno fatto qualche modifica. Il mio funziona, fra. Ce l'ho anch'io. Il mio funziona perfettamente, te lo sto dicendo perché lo conosco. Lo conosco. Quando io uso un baracchino che ha alta potenza, lo metto in bassa per darle la protezione. Se lo metto con un baracchino c'è bassa potenza, lo metto in alta, però funziona. Ma no, questo qua, adesso io l'ho provato a schiacciare, l'ho tirato su e niente, si abbassa la ricezione della radio e poi schiaccia e non fa niente. Che strano, io ce l'ho e funziona, io lo usavo col DAC quando praticamente c'erano le valvole che non servivano più, erano 2 watt e mezzo, 3 watt. Allora avevo agganciato il PV131. Avevo messo le valvole nuove, che mi aveva dato Gianni il KP2, l'ho staccato perché adesso dà la sua potenza, 10 watt, 10-12 watt. Da. È strano allora, perché se sono così di 131 questo qua, allora l'hanno fatto qualche cosa gli hanno fatto. Qualche modifica all'interno li hanno fatte, fa. Bisognerebbe aprire e vedere quei fili di quell'interruttore dove sono collegati. Il mio l'avevo controllato, l'avevo aperto per vedere come era fatto dentro. E quei due, i due fili di quell'interruttore sono collegati sotto a una scheda che c'era dove arriva il, dove innesta la valvola. L'unica modifica che ho visto su questo posto è gli hanno messo la scia quando la scendi e basta, la base, la fermano colore. No, è un esercizio, ma nulla. Allora serve questa modifica, per vedere che cosa, per vedere quando è acceso. Perché non ti si illumina lo strumento a te? No, né, niente. A me mi si illumina lo strumento. A me mi si illumina lo strumento, quindi vedo che è acceso. L'interruttore, quello che c'è, si illumina lo stesso, l'interruttore suo si illumina, quindi lo vedi in off, on, quando è in on si illumina del rosso. E poi c'è lo strumento che si illumina lo stesso. Io non ho aggiudicato nulla, l'avevo comprato così, però altre modifiche non ne hanno fatte. Eppure lo guardo bene. Guarda, questo è bollente, non ricomodo. No, toccare che c'è tensione dentro, devi farlo scaricare. Devi far scaricare la valvola per sonatore, non mi dico. Devi spegnere e lasciarlo raffreddare. Quando è freddo riesci a scaricare solo. Non ci mette le mani adesso. Che sono con questa. Questo sembra così, ma è poco scarica quella mia. Ho preso un balzinato io col DAF cambiando le valvole. Non dimenticato, cioè l'avevo spento, però mi ero messo subito a attaccare il valvolo, ma c'è aggiuntato, gli ho dato ricorsa, ma ha sudronato, che... Ecco, comunque tu sei venuto, no, non me l'aspettavo, pensavo che ci avevo dovuto buttare. Mi sei buttato, è perfetta la popolazione. Passi da sì a 9, da Santiago sì a Santiago 9. La modulazione non cambia, è perfetta. Sì, modulazione è normale, normale. E niente, che qualcuno gli ha fatto qualche modifica, spesso ha portato il capo d'alimentazione, e il prezzo che ha fatto un modifico. No, dentro il lineare c'è il cavo rotolato. No, dentro la radio, questa radiolina. Ah, e io beh, faglio la misura che ti serve. Meno dispersione di alimentatore, di alimentazione c'hai. Te lo fai bene, metti due occhielli, due connettori nuovi. Già va bene. Prova in FM a vedere. Aspetta. Ecco, sì, stavo cercando la mascherina per guardare qual era il pulsante. Ti ascolto benissimo, eh? Anche io, perfetto, veramente. Molto bella, grazie. Ma la onda. Proprio. È tutto un po' qua dalla luminosità e la carrozzeria. Infatti l'ho presa in mano, oggi, tu ci avevi. Se secondo me ce la butto. La modulazione, bella, bella, bella, non ci sono problemi, veramente è bella, 5 perfetta, non hai carico di modulazione, però è 5 perfetta. Ecco, poi c'erano anche due, come si chiama, quei portatili Indicom 50. No, ma dove l'hai presa questa cosa, l'ho capito. No, ce li aveva mio cognato, ce li aveva dentro la scatola, lì in casa sua, però nel sgabuzzino. Ah, ho capito. Oh, funziona benissimo, la grande. Bene, bravo. Scatta. Vuol dire, quando lo trovo, lo pongo appunto. Pensa che tu, vedo che mi batti. Il rascio è quello del vicino. Ehi, allora, ne ho fatto una io l'altro giorno nel Poggiolo, ma se la vedi è uscita nuova, nuova, nuova. C'era dei grafici, come era sempre dentro l'armadio. L'ho tutta ridicata, mi sono fatto dare la carta quella fine a Roberto. L'ho levigato, ho fatto una spruzzata di, diciamo, una mummoletta della Maxi Meyer, nero opaco, ma è uscito nuovo, nuovo, nuovo. E le più ordinate, capito, ma le radiografiate non mi piacciono. Quindi fai burudusci, però ti ripeto, va molto bene quella lì. Sì, domani c'è un po' di un attacco che mi per attaccare al baracchino, no, quindi si attacca in ombra dell'attacco, quindi lo cambio, non cambio niente, già ci sta. Io lui ci sta, la voglia che ci sta. Sì, faccio lui ci sta. E lo metto da parte, e l'ho messo male. Dentro c'era anche il coso dell'antenna attaccato, fa anche il capo del microfono, la calintera. Più se ne fa il volume, noi più in fretta facciamo. Allora, a me potremmo pure dare l'antenna. No, la scala aerea lì, mi metto lo staff, ma così una bizza, vedi c'è l'antenna piazzata del bar. Cosa ci vuole? Io mi ho cambiato il pugliare che c'era la finestra, mezz'ora ci abbiamo messo col muratore, quello sta facendo lavori qua dei pugioli, mi è cambiato il pezzo del tubo dove sono i cavi che esce la pluviale, sino alla finestra, me l'ha messo nuovo, con tassellato, con gli occhiali perché c'erano le fascette. Io l'avevo fatto provvisorio, poi ci è rimasto un sacco di anni, adesso è definitivo, ho fatto veramente bene. La verità, mai nessuno ha detto bye, mai nessuno, anche quando ho montato le direttive qualcuno alzava la testa, qualcuno me l'ha detto, ma tra le due sono quelle, ho detto sì sì, montate nuove, più grandi, ma il vento, mi toccavo le balle io, il vento, il capo di rigaggi, il vento. Oh yeah, ma questa è ignoranza, ecco. Per carità, guarda, prima mi dice sì sì vieni e poi boh, non si fa più nulla. Oh yeah, gli ho fatto le leggi e tutto quanto, non le vuol sapere. Lo so, però lascia perdere qua che il tetto è condominiale di tutti, però io usufruisco della mansarda e quindi nessuno mi può dire niente, anche perché solo la Mantova c'ho dall'altra parte, dove io praticamente non ho accesso, però mai nessuno mi ha detto niente perché non disturba, non fa niente, però tutte le antenne sono sotto il mio tetto, quindi non possono rompere le palle, ragione per cui tu sei a casa tua, lui è in affitto, questa è casa mia, io salgo e monto quello che mi pare mi piace, magazzino. E infatti, e poi è oltre il terrazzo, cioè è un punto dove a lui non gli può creare nessunissimo fastidio, non ne usa neanche, capito? Oh yeah, già viene tutto a tiro, là, già viene, non ti preoccupare, mica era qualcosa da fare che gliela sto negando subito. Sì, non mi avevo fatto bagare, anche quando io sono andato in via Pascoli per 3 anni, perché stavamo ristrutturando questa, praticamente non ho avuto problemi, ho chiesto prima all'amministratore di chi era l'ultimo piano, perché c'era terrazzo molto bello, lì si poteva montare di tutto, e mi ha detto di signor Solinas, ma un uomo di 85-87 anni, abbastanza gentile ma molto pignolo, capito? Sono salito con l'amministratore, con lui, ho detto guarda io qua in questo punto devo mettere un'antenna, una, è una piccolina in questo angolino qua. Mi ha detto ma non crea nessun problema. Ho messo due staffe con i chimici, poi siliconato, tutto bene, salita, controllato, ho detto sì, va bene. Eppure era muro suo, me le ha fatte mettere. Non mi ha creato problemi. Quindi, mangiavo preso, non era casa mia. Lì è casa tua e lui rompe le palle, ma stai scherzando, la vita cosa va una cosa, io qui già arriverò a via di. E infatti ha detto va, fermatevi, se lo butto alla finestra oggi, fermatevi. Oh, yeah. E poi anche l'altro dove la voglio mettere io, quello lì sarebbe il muro, il retro sarebbe il muro che sale dalla nostra mansarda, capito? Perché mio zio è molto più in basso, lui non ha voluto sopraelevare, mentre non aveva sopraelevato, capito? Quindi è un muro confinante con questo terrazzo. Io me la ricordo, Daniele, la ricordo perfettamente. Me la ricordo perfettamente, praticamente tu devi mettere all'angolo dove noi, vabbè, noi l'abbiamo messa quasi al centro del poggio, tu devi mettere all'angolo. E non ho capito che fastidio le dà. Senza bucare muro né niente, il lavoro che volevo fare io, quello dello scatolato, quello lui non dava nessun fastidio, perché anche se deve tendere, anche se deve fare, lo scatolato rimane della stessa misura, no? Che mi pare che sia da, non mi ricordo, ma è abbastanza largo, della stessa misura del piatto della ringhiera, dello scatolato della ringhiera. All'interno di quello scatolato ce ne va un'altra più piccola che scorre dentro, ok? Saldata in punta, basta. Non è che ci vuole, poi una volta che tu lo fai scorrere, uscire fuori dalla mantovana, l'antenna, c'è il bullone passante, ok, con il dado quello autobloccante, non c'è inossidabile, boh. Lui non nessun fastidio, è malato di trebbio, secondo me, vuol dire che non te ne vuol far piazzare, ma io già la piazzo lo stesso, ma raga, non piazza. Per carità, guarda, che poi quel pezzo sono 35 centimetri per esattezza da di smalto, diciamo, dai, da uscire fuori dal poggiolo. 40 centimetri fai. Per essere oltre la mantovana. Quindi figurati, io mi ricordavo 60. Invece 40, quindi ancora meglio, ancora meglio, ancora meglio, capito? Ovvio, un bel lavoro lì, si fa da un metro, scorrevole, un metro 80, dai, il piatto attaccato sono andato alla ringhiera, altri 80 scorrevoli, di cui 60 ne escono, 20 ne rimangono dentro, boom, a posto, sente il guaccio. Va bene, dai, se no mi viene lì cazzo, salgo su e veramente ce l'ho buttato al terrazzo oggi. Per carità. Oh, magari li passa a buro, mi macchini. Daniele, io ti consiglio di prenderlo con le buone, perché queste persone anziane sono sempre da rispettare, per carità. Lo prendi con calma, dai, devo piazzarla qui e là, non crea problemi. Se ci vuole bene, viene un fraidaggio. Leggetta, perché magari pensa che lo fai tu, che fai un lavoro fatto male, capito? Guarda, diglielo, devono venire delle persone che sanno quello che devono fare, non lo faccio io, quindi viene l'impresa, viene quello che ti piace, no. Cerca di prenderlo alle buone, capito? Magari ribassa e te la fa piazzare, perché viene un bel lavoro a quell'angolo, era quello che dovevamo fare, poi se ti ricordi non avevamo saldatrice, non avevamo materiale, niente, però la cosa era quella, l'idea che io avevo dato a Franco era quella, poi l'avevo messa tutta di traverso, però non andava così l'antenna. Non andava, no. Però il suo lavoro già lo faceva, dai, un po' zoppi zoppi era, già andava bene. Non mi posso lamentare. Adesso vediamo, ora se riusciamo a fare qua poi. Come abbiamo tempo, finisco questa cosa qua, si sistema tutto. Un suo lavoro, riuscivi benissimo da lì. Anche da quella punta, capito? Sembra che ne stava sempre cadendo quell'antenna. Io tre volte passavo lì con Franco, soprattutto ci mettevamo a ridere. Però il suo lavoro lo faceva, se invece facevamo quella staffa scorrevole, allora l'antenna era una cannonata, capito? Perché poi, volendo, anziché mettere la staffa o alla fine dello scaccolato, quello scorrevole, anziché mettere la staffa, se tu le saldi un altro pezzo di tubo, no? Con i bulloncini che poi chiaramente devono fermare l'altro che innesta dentro. Sai quanto è facile a tirarla su? Ma facilissimo, ma una fesseria fra. Oh, Daniele, esce un bel lavoro, troverai. Usciva un bel lavoro. Abbiamo fatto portato da un'officina, avremmo fatto il coso praticamente concavo, no? Per appoggiare bene il tubo allo scaccolato, tutto bello saldato sotto e sopra, e poi avevamo fatto i buchi per mettere i bulloni passanti. Una canonata, sciaga, eterna quel lavoro era, non lo toccavi più. Prova a dirglielo, prendilo con calma, se molla dimmelo. Un sabato mattina portiamo per l'attrezzatura, ci prepariamo il materiale, prima già me lo preparo io dall'officina di Roberto e poi si piazza. Cava, cava, adesso vediamo, speriamo bene, dai. Va bene, va bene, Iuia. Ma no, non c'è nessun altro qua, no, qua. No, c'era Franco, però è sparito, fra. No, io sono qua, non è quello il problema, mi sto facendo quel lavoretto, quel baratino. Ma lui già madre non mi ha riposo, pensavo che avesse chiamato tua moglie. No, probabile stavo staccando questa radio e ho attaccato questo. Ah, ecco, mai ti ho chiamato quando hai staccato il baracchino per attaccare il 68. Eia. Va bene, va bene. Guarda la stanchezza addosso, cazzo, mamma mia, Daniele, quasi 30 metri cubi di impasto abbiamo tirato, ubiazzati, tre bettomiere da 7 metri cubi, cazzo, non c'ho più schiena. Beh, ti credo, cacchio. Va bene, piano piano, dai, già, già fai, ah. Ah, niente, non ne ho fretta io. Non ho nessuna fretta. Grazie a Dio, grazie alla cassa. Quando si finisce, si finisce. Che problemi ci sono? Tanto. Fretta non ne abbiamo. Però, minchia, mi sto uccidendo. Uccidendo mi sto, cazzo. Per carità, guarda. Lascia io guardare tu. Aiutare a piattare il cancello elettrico. Ma tu in due non ce la facciamo. Mi era in chiare per mettere la lampa, il cancello elettrico, per piazzare la lampa quella che si apre. Noi non ce la facciamo, la facciamo, giù ma mi sembra il legge. Sto facendo il cancello sopra, se non mi sposto mi schiccia. Allora. Grande, no, Cla? Quasi 4 metri il cancello. Quasi 4 metri. Però è a Dante, si aprono a parte in fuori, no, molto. Si è piazzato tutto. Però per piazzarla doveva togliere un'altra perché doveva fare i fuori. Ma mi c'è ben leggere. Ho detto, quando vieni a fare lavori, vieni con l'operaio tuo, perché io non ti aiuto più, Canta una volta, siamo in pensione, raggio di Muri. Cavolo. Oh, Iuia. Dai, stai, faccio un attimo di bianco, Cla. Già, arrivo subito. Gappa, gappa. Finito, è fra. Vabbè, me lo posso fare anche no, però gli sto facendo questo capo d'alimentazione che fa l'uovo, gli sto facendo, e poi glielo faccio in modo che lo posso staccare, e come tutte le altre radio, da dietro, che si possa staccare. Chiediti sempre per i baracchini, tanto sono universali più o meno. Se ne hai tanti baracchini come ho fatto io, non sono andato a Fusaro, mi ha fatto quegli attacchi rapidi, maschio e femmina, bianchi, in plastica, capito? Ce li ho tutti così, tutti universali. Infatti ne ho uno sempre attaccato all'alimentatore, quando devo provare qualche baracchino prendo, tac, lo collego. È una cosa ordinata, pulita, non stai lì a cavi, cavetti. Con un unico cavo attacco tutti i baracchini, tranne quelli valvolari naturalmente. Ecco, no, già l'ho fatto, ne ho fatto uno così, ne ho fatto. Ah, certo, gli metto un altro attacco, si fa l'attacco, lì certo, tanto il cavetto è sempre il suo, tanto per quando prendo stare lì a staccarlo dall'alimentatore, stacchi quello da dietro e buono. No, io ce li ho tutti uguali. Il Typhoon 2, l'Elbex, la 87, il Ranger, il 3006, che è il Superstar 3006, tranne il Cobra, che è diverso l'attacco perché quello c'ha 100 watt la radio, quindi il cavo è più grosso, l'attacco è diverso. Ma gli altri sono un attacco unico, tutti uguali. E se no ogni volta che devo provarli, ogni tanto mazzo macchine, ne prendo uno, lo attacco e lo provo. Gli attacchi dei microfoni sono tutti uguali, tranne che il Cobra o l'adattatore, però posso provare sia l'MB3, sia l'MB5, sia l'MB4, lo Shure, lo SBS, tutti con tutti i baracchini, tutti connessione uguale. Tranne il Cobra c'ho l'adattatore, perché è diverso, non lo posso cambiare, se no mi sfasa gli altri baracchini, capito? L'altro, il mio 2, 1, 2, 3, che hanno un attacco del 48. E c'è anche un altro pronto a piazzare in caso che si rompa qualcuno, io, del 48. No, neanche ce l'ho così. Ascolta, domanda, quanto stai andando adesso con questi 80 di watt precisi? Adesso sono intorno alla trentina. Cioè, un qualche punto esce in meno, e allora è fattibile. che stia dando una sessantina, sì, se ne hai 30, magari i modulati sono 40, 40, 50, sì, cioè sì, 9, 9 pieno, mentre con quello là eri quasi 9,5. No, ma quando scalda questo qua va intorno ai 50 e ti arrivo quella... Quello lì, era, questo era invece freddo, infatti stavo facendo la proporzione, no? Come ha detto, stavi usando 60 watt col BV131 ed eri quasi 9,5, adesso sei 9 e stai andando intorno ai 40 watt in linea di massima, perché 30 ce l'hai portante, 40 ce li hai modulati, quando poi arrivi a 50 di portante sicuramente arrivi a 9,5 lo stesso, capito? Sì, già è così. No, sicuramente, perché me ne accorgo quando, perché io adesso sul monoportante, la mia portante rimane a 9, rimane, mentre quando sale che scalda bene, la portante mia è a 9,10. Che poi io ce l'ho, vabbè, 4,40 c'è la scala dei watt, io ce l'ho come Smithers a 5, nella scala di sotto è a 20 watt di portante, 20, sempre così ce l'ho io, adesso vado a doppiare, vediamo se funziona, perfetto, perfetto, LC, sì, dentro la striscia rossa, tutto allineato, perfetto. Va bene, va bene, Ninja funziona. 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 alla fine non ho capito a cosa serve quello qua. A nulla, una cagata, una specie in più. Una specie in più, io l'avevo voluto fare. Cioè io, l'avevo messo a Carlo sicuramente, ma costava un po' di soldi la scheda fonico. Faccia anche tutti i filtri, no, è completa, nuova, nuova. Molto bella, per quello lo... E quell'altra che ti avevo detto io, quella non era la mia, ma l'avevo data a vendere, l'avevo data ad un amico, però non qua, se l'ho portata ad Olbia, capite? Se l'ho portata ad Olbia, però quella non era la mia. Funzionava bene lo stesso, una serie mi sembra diversa da questa, però funzionava bene. Riccio Breccio, già funziona. Va bene, va bene. Capo, ho sentito che quello lì serve per i obbedienti, è così? Fra, cosa si abbia ragione, non lo so, ripeto, non lo so. A cosa serviva la scheda fonemi qua sul 440? Perché gliel'hanno messa? Perché gliel'hanno messa non lo so. Magari pure che sia così per i non vedenti. Però cazzo, va a vedere in italiano, lo manco, va a vedere in inglese, se non è tanto non comprende una nuda. Allora c'è chi me l'ha suggerito? C'è un casino qua, sono qua a parlare con i bambini che scrivono. La scheda fonemi l'hanno inventata per i non vedenti. Non serve a noi. Quando uno cambia banda o cerca la frequenza, quest'altro sente per questo. Quindi l'hanno fatta per Paulino Gento. In quel caso anche a lui. Sì, fra, effettivamente è così, però dico, fai una scheda foneme che parli in italiano. Moriamo in guerra, no? Che ve ne può gaeri andando a Torrelli? È colpa della guerra. Ma poco fa che vanno e tornano gli aerei. Ciao Walter. Ho capito. Io non lo sapevo, era così, però se l'hanno fatta, una soluzione c'è. Sì, claro, l'hanno fatta per un motivo, solo quello. Usano ovviamente la lingua internazionale, poi può darsi che ci sia un programma o qualche cosa che in queste cose che abbiamo sviluppato che sia che parli anche in italiano, però l'inglese in genere i numeri li capiscono tutti. Sì, infatti, la roba che parla solo di numeri, non è che i numeri 1, 2, 3, 1, 2, 3 già si conosce. Sta facendo la cosa, aspettando, alle 6, alle 18, no? Juventus Empoli, ci tende, e lui ci annuda a volte. Poi ho letto la data, la prossima settimana, oggi gioca l'Italia, ma dimmi tu, mi ha rincoglionito qui. Sì, non c'è lui. Sì, ma io ho letto sabato, ore 18, senza guardare la data però, aspettando, ho detto, ma no, partita, non la vanno, cercando, a destra, a sinistra. E poi ho visto la data la prossima settimana, la mazza che tiene lui. Però è una partita del cavolo questa. Ah, stanotte ci vediamo l'Italia. Io ho visto Portogallo, Ucraina, ma la squadra è faccia a Shevchenko, vabbè. Speriamo che vinca l'Italia, che faccia qualcosa, che vada avanti per i mondiali, se no gioca duro giosso, mi fa. Che merda che fa? Non va di mai gioca duro giosso, al marco un parigino. Buonasera Walter. Ciao Franco, buonasera. Come io via. Da una lì separato lo giusto. Mi pare che gioca bene con il Budiginia, ma. C'era un mio dipendente che giocava col Sol secondo la C2 però. Questo ha giocato col Cagliari, che cazzo ne fanno i bambini. Adesso col Cagliari anche, Bruno Lombardi, non lo so, è conosciuto. Bruno Lombardi? Bruno? Sì, e beh, quello è anche bravo col Sol. Sì, io credo. Ha giocato con Pesaola nel Cagliari, in Serie A. Poi ha giocato nel Sol e poi sono venuto come a lavorare. Credo che non andavo a lavorare in Cisina, proprio in campo. Un cacchio, prendono un sacco di soldi. Uno è per uno, infatti. E poi che ha aperto un altro locale, l'Angela, non so se è proprio produttore, se fosse. Ok, va meglio per loro. Sì, vabbè, a me la Gianfranco Zola, non ha di là. Eppure, sta ancora allenando. È meglio, lo pagano. Ho fatto Baronetti in Inghilterra, quando giocava lì con Chelsea in fare. Gli davano 5 miliardi all'anno, era lì, eh? 5 miliardi di euro all'anno, quello di Oriena, è stato per prendere. Infatti c'ha attività lì a Londra, per quello lui era andato lì. Così hanno letto. Sarà anche così. Oriena avrà asfaltato tutte le strade. Qualcosa avrà fatto. Hai visto fra, voglio dire, troppo di là. Invece Ronaldo, per un gesto del cacchio gli hanno messo 20.000 euro di multa. A Simeone non gli hanno fatto niente però, uscire. Uguale. Anche a Simeone 20.000 euro. Sì. Per Simeone è come che abbia pagato 200 euro. Per Ronaldo è come che abbiano pagato 200 euro. È come che abbia tolto 100 euro dal portafoglio. Ammazza, mi viene guarda. Stavo leggendo l'altro giorno tra ingaggi, sponsor e soldi della Juve, arriva quasi a 70 milioni di euro. Ma come si fa? All'anno? Sì, all'anno è nuda di base. Allora, lo sponsor più bello che è quello della Nike. Tu volte, tu già sei un imprenditore, 70 milioni di euro all'anno sono 160 miliardi. Ma dove cazzo li metti? L'aereo personale, le più belle macchine del mondo, viaggi, vive dappertutto. Vedete, non gioco qui. In Bosnia ci sono mazzelli, ma una data leva, cazzo, ma ti sembra giusto una cosa del genere? Sì. È giusto? Sì, è giusto. Qualcosa però potrebbero anche darla in beneficenza. No, perfetto. Va meglio così. No, ti sentivo lo stesso. Non è così, il beneficente la fanno a chi dicono loro. Quando un imprenditore o un giocatore, uno sportivo, arriva da un'altra delle 5, c'è che si ritrattene, perché molti si rovinano anche e diventano tutti lontani. Ah beh, certo, ne approfittano, fanno, tirano, molla. È normale, però, cavolo, sono un bel di soldi. Minchia. E poi la cosa che mi ha fatto un po' più incazzare l'altro giorno che stavo guardando le statistiche, scusa fra, che anche l'altro è Juventino, ma qua è 9 Giulia. Allora, il più pagato della Juventus è Ronaldo. Ok, Dybala, Bonucci. Questo Bonucci prende più di Chiellini. Bonucci prende 10 milioni, mi pare. Chi era Giovito, chi era Giovito? Chiellini non arriva neanche a 5. Roba la mattina, roba la mattina. Mazzo, Kishimoto, il terzo più pagato è Bonucci, c'è Ronaldo, Dybala, Bonucci. Dybala di meno di Bonucci. E lì, no, 7, sì, 7, meno di Bonucci, figura di due. Thank you, eh. Stavo dicendo, c'è uno, ma si pensa Ronaldo, qui da lui come esempio, che degli sportivi uno dei più pagati, ci sono sportivi più pagati di lui, c'è un pugile in America, non lo so se quello del dopo adesso lo supera, Beckham è allo stesso livello, perché lui ha circa 600 milioni di euro di capitale, dei quali 2 milioni di euro al mese, che sono 24 milioni di euro all'anno, glieli dà la Nike, ha un contratto con la Nike, da 2 milioni di euro al mese a vita per sempre. Pessimo, io aggarro. Avanti, Daniele. Ecchi, vecchi, ma è salta fuori una sigaretta. Che? Daniele. Daniele, non lo senti a volte? Mio Dio, lo sento. Ciao Walter, se mi ascolti, buonasera. Ho messo lo squelch un po' alto, Daniele, ciao. Ma arrivi male, devi stare nel seguito. Lo sento basso basso, là. È in mezzo al QRM, pensa a tu. Sì, ma non dipende da lui, dipende da te. Qua è normale, modulazione normale, 9.10, quando dà un po' più di potenza 9.30, figurati. Oh yeah, già sono messo bene già. E beh fra, li ha dove che c'è un gojo. Tanto, sto dicendo, Ronaldo tutti hai preso lui, no? E pensa allora a gente come Berlusconi, pensa a gente come Abramovic, che Ronaldo vicino allo stesso. Berlusconi, Berlusconi. Però se tu ti ricordo che chi è che ha pagato 230 milioni di euro? Ah? Chi è quel giocatore che è stato pagato 230 milioni di euro? Neymar. Cazzo, Neymar da mettere vicino a Ronaldo. Più giovane, hai capito. Cazzo, ma 230 milioni di euro? Cioè Ronaldo è costato quanto? 100 milioni di euro? All'anno. All'anno. Dei quali se li ha rifatti solo dalla luce delle magliette la Juve. Ma stavo guardando anche l'altro giorno, è la più quotata, cioè la, penso che sia l'unica squadra italiana nel calcio quotata in borsa. No, ce n'è un'altra, adesso non sono informato. La Juve sì, se prendete la fine della Juve prima, oggi avevi chiuso, ma chiuso, prima di che prendesse Ronaldo. Quando ha preso Ronaldo c'avevi 1000 euro, quando ha preso Ronaldo che si campionato avevi minimo 40.000 euro. Porca miseria, non ci avevo mai pensato a investire lì. Invece mi hanno investito e siamo portati via. È così. Contento nel mondo, vai, gli arabi, questa la mostra che hanno, questi personaggi. Comunque, io mi seduco, non sessualmente però, come la poeta, non caucato, c'ha tutti i soldi che vuole, fino a tutti i libri. Fate, solo per quello, ma come persona, manco vicino tu sia la poeta, è tanto è guaio. Ui, tu quasi non hai detto di che c'è la poeta, ma lì che parla della Fiat, neanche se non l'hanno promesso, qui c'è la reazione della Fiat. Gli toccano i dividendi, gli tocca... ma si può dire questo, prende un bel. Ma cos'è l'affitto? Gli dice, è simpatico, se lo conosci di persona ti fa ridere, non l'ha mai parlato bene in italiano, è un personaggio, è un personaggio, è fatto così, poi gli piace la troia, cosa, sarà chiuso di tutto, ma è un macchiato. Cuomane! Se no, ma di tutto, è un macchio con fatto curioso. Fortuna di niente, sono sicuro di così, sono lo stipendio a guardare di 100.000 euro al mese. Minchia. Una volta solo li ho visti io, abbiamo venuto a casa di cose, per sciogliere, 100.000 euro, era la mai Ducati, ma... Ma per le piccole spese è quello, si pensa la compensazione a vivere le magliene, la tortina. Ma c'è un gesto nel mondo. Che noi siamo poverati, e dunque poverati, c'è una vita normale. Vabbè, uno che ha una vita e lavora come te, le sue soddisfazioni, gli altri le tocca, le tue secondo la tua, i io mi ritrovo che da giovane, adesso sto solo facendo sacrifici per stare bene a vecchiaia, per il resto si abbiglia in coso, quando nasci così, così muori, perché è la pura verità, cioè i soldi vanno ai soldi, se nasci ricco, nasci ricco. Se nasci povero, a diventare ricco ti viene male, ricco dico a quei livelli. E puoi diventare benestante, ma facendoti il culo la mattina a sera. Oggi è difficile tutto, ti da accontentarsi anche della pagnotta, e chi ha già lavoro fisso è fortunato. Se non cambia la politica le cose, ma non parliamo di questo anche là. Prima infatti, chi è andato andate, chi ha avuto avuto, gappa, e beh fra Franco è cascato. Ho detto, quanto ti arrivo io lì così con 20 watt del 440? Sono lo smitti, che 9 10. 9 più 10? Aspetta che cambio la radio. Più 7 più positivo a 10. Già sono qua, ce l'avevo salvatore in mano. Aspetta, devo spegnere l'altra radio, però se no è un casino. Mentre invece così quanto è? 9-10 fisso. 9-10 fisso, che tu già vai dal telefonatore? Più forte lì. Più forte? C'è il doppio, tre volte tanto di potenza, non aumenta tutta. 9-10. Da 9 più 7 a 9 più 10. Quando parli di 1 più 11. Sì, l'altro col K arrivavi 7, quindi positivi a 9-10. Questo arrivo più forte da Franco che da te. Giulia che sono io. Ah? Cosa hai detto Giulio? Niente, ho detto che gioca di pala c'è con l'Italia lui. Ah, così è, di pala gioca con l'Italia. Ciao Walter. Allora, adesso sono diventato italiano, ormai. Tanto l'Argentina non lo vuole più. C'è qualcosa che non mi convince a batterli. Boh, Giulia, quanto ti sta arrivando a te? Non lo so perché non l'ho guardato, aspetta che guardo. Aspetta che c'è quel canocchiale. C'è qualcosa che non funziona lì forte. C'è qualcosa chiuso. C'è qualcosa chiuso. Adesso te lo dice Giulia, quanto arriva Giulia ai punti. Non ho capito perché a te arrivo così basso se ti vedo. 9 più 15. 9 più 15, vedi? Quindi, e tu sei 9-10. Ti arrivo a te. Franco, da te quanto sta arrivando? 9, ciao Giulio! Ciao Franco! 9 più 15 con il mio colpino, con questo di filo che ho io qua. Non è, diciamo che non è valutabile questa antenna, dai. Perché sono un pezzo di filo. Ho capito. Va bene. Ok, ripasso col capo allora. Sì, allora Di Bala gioca con la nazionale italiana, vabbè. Sì, come la catapalle. A carità. Ma lo sai che oggi segna Kenda, lo sai, sì, eh? Che oggi segna? Kenda, gioca al posto di Chiesa. Al posto? Ah, ma in nazionale l'ha convocato. Allora, lui è un campione, di cose che c'è un primo, però io è un campione, dai la parte. Vediamo. Io ho visto Portogallo-Ucraina ieri, Giulio, e ti dico che l'Ucraina, Shevchenko, c'ha una bella squadra. L'ho vista anch'io, l'ho vista. Per cui, sì, ho una bella squadra, Shevchenko. Cazzo, ma quanto è in forma Shevchenko? Lì c'è sempre bello tirato, dice, non di ligneo, brutto, non di russo. Bello, veramente, una persona che si è mantenuta molto bene. Sì, veramente. Un grande allenatore, ho visto una bella squadra, proprio alla grande, vabbè, parte. Insomma, adesso sto parlando. A questo come arrivo io? Ciao. 9-5. E così aumenta un po'. Salutano per 20. 9-25. Vabbè, ma non fa testo Giulio con te, siete vicini anche con coso, però. Io arrivo a 9, lui 9-5 liscio, va bene, siete molto attenti per sorso. No, ma lì quando ho cambiato il radio, e quella ne dà di più delle 4.40, combaciano i numeri. Lo so, no, ma ripeto, no, quello che intendevo io, che con l'antenna dove ce l'ho io adesso, quindi basta, e chiaramente l'ho patetto, perché sicuramente se la metto nel suo posto originale aumenta il segnale, alla grande anche, perché la metto fino a 5-6 metri, per cui dovrebbe migliorare sicuramente, anche per basta naturalmente. Di solito basta quindi che arrivavo nel 930 quando avevo la turbo era oltre il 930, adesso stavo arrivando 925, lo stesso Franco mi arrivava quasi 920, mi arrivava adesso sta arrivando 910, ma ripeto sempre con questo filo che ho, non è un'antenna, chiamiamola filo per strangolare la frequenza. Ma infatti mi ricordo quando avevi la mappa ero sempre intorno al 920, qualcosa è perso, anche qua sei 915, 918, prima eri sempre 920, 922, 25, vabbè, va bene, l'importante ci sentiamo, dai, che ha pagato, ma che ora si è fatta? Ma giù va mio, buh, poi sì, 7:15 sono già, avanti fra. Ma che sto qua, se vai a farmi. Ho mangiato poco a pranzo. Vabbè. Anche io ho mangiato poco, pure fammi non la giunga. Vabbè, è tutto una questione di abitudine. Avanti, Giulio. Mi devo chiedere il permesso di QRX, riprendo dopo. Ok, va, a dopo, dai. Sì, ma certo, ho fatto, io sono lo stesso parere, naturalmente uno bisogna mangiare, non è che di muore il fame. Anche se non è che poi va a voler tentare la zucchero, si è abituato a voler molto. Ora, mangi o non mangi, cosa stai facendo? Ti stai mantenendo in linea? No, non me l'hai detto giù. No, a Franco, che lui sta mangiando poco, ma magari per mantenersi bello in linea, ma così è fatto. E allora? Mi tocca fare pure attività sportiva, che se no io è un casino. Vabbè, già fa bene, l'attività sportiva già fa bene, altro che. Però non bisogna esagerare, con la dieta, sì, dimezzare, mangiare tutto, ma dimezzare sempre il piatto. Ma c'è tutto, se non mangia più di un piatto, ti ne mangi meno di un piatto. Mi sa che anziché che mangiate due o tre, se ne mangi solo una, perché ti amaga, e così via, per tutto il resto. E quando mangi la pasta niente fare, quando mangi il pane niente pasta, e così via. E nemmeno le patate, quando mangi pasta, nemmeno le patate devi mangiare, perché sono sempre carboidrati che poi si trasformano in calorie. Per cui, allora sta girando una ricetta, vabbè, va. Come si fa? Vai, lo sapevamo già quello, eh. Abbiamo... Siamo su candardo allo dietologo, su candardo, fa caridai. Manco i risoli, solo i risoli non li arriveranno, quindi, a me da un poco. Fra, già solo si sa che è così, ma io, questo me ne mangiava una vettoriera, me ne mangiavo di patatuta. Adesso invece, adesso mangio poco, a confronto di quello mangiavo prima, prima mangiavo tre volte tanto, ed ero più magro. Adesso che sto mangiando di meno, sono ingrassato, non è possibile. Avanti qua. Vabbè, Franco, per l'età che hai è abbastanza omogeneo. Sì, Walter, buon X, già siamo qua. È abbastanza omogeneo. Aspetta, io ho sollevato la potenza. Oh, ecco qua. È abbastanza omogeneo, Walter. No, Walter no, Panuta, Franco. Quindi tu non ti puoi lamentare, io la costituzione mia è quella, sono intorno agli 88, 87, 88, vabbè, non scendo di più. E voi non fa vedere di mangiare, fra, io ho sempre fame, sto sempre stuzzicando, sempre facendo e soprattutto quando sono in movimento, capito? E mi lamento, a calendari, io guarda. Questi due o tre giorni non ci sono andato, se no di solito mi faccio sempre 6 km la mattina. Vabbè, no, però io quando ero a lavoro mangiavo di meno e praticamente, come si dice, smaltivo molto di più. Adesso sì, mi muovo, faccio un sacco di cose, però non tutti i giorni perché non mi comanda più nessuno, invece là era un routine come eterno, quindi era normale. La mattina mangiavo il panino, prima di partire magari mi fermavo a Baresi, tutti chiedevamo qualcosa, poi partivo, capito? Però bruciavi, invece adesso no, adesso devi stare attento perché secondo quello che mangi, io se mangio i carboidrati come dice Giulio a pranzo, non è che li posso mangiare anche a cena, assolutamente. Capito? Perché altrimenti diventi una gubba, vai giù. Camminando un po', un passo un po' alle grotte, però camminando, non mi metto a correre. Ah, è ok, infatti anch'io avevo fatto così, l'avevo fatto. Sorpresa che avevo fatto un giro, l'ultima volta che avevo fatto la passeggiata era una roba di 8 km che avevo fatto, forse anche di più, perché da qui, da dove sono io, sono sceso giù, niente di meno, fino ad aver fatto di Vaxel, e ne sono uscito da San Giovanni dalla passaggio di San Giovanni qua. E ho fatto un conto, saranno all'incirca 8 km, forse anche qualcosa di più. E io da qua da Carbonati vado al mercato a piedi tutti i sabati. Vado e torno, capito? Taglio da scendo via Carlo Felice, taglio da via Lomberto, e scendo sino, faccio tutto via Lomberto sino al mercato, però faccio salire tutti i sabati. Adesso oggi non ci sono andato perché avevo oggetto stamattina e stiamo facendo dei lavori per lunedì e quindi ero impegnato. Ma il prossimo sabato ci vado lo stesso. Fa bene camminare, non è che non fa bene. Fa molto bene, la cosa per noi che abbiamo già i 60 anli, vabbè, tu li hai anche superati, quindi, ma parlano sempre, anche per i cinquantenni fa bene camminare, capito? Fa molto bene, senza guri, camminare, però a volte non hai il tempo, non hai la voglia, capito? L'estate, io l'estate scendo come un coso, Giulio, senza pannuta, solo sudando, col caldo, muovendomi così anche in campagna, non sai come scendo. Non so se l'ho calato di 7 kg, ma niente, 7 kg, solo proprio buttando fuori il sudore e così, capito? 7 kg. Ultimamente l'ho dimagrito 5 e adesso sono risalito 86. Vabbè, ma il peso mio è quello, non me l'ha fatti tutto. Ah, beh, certo, cosa vuol dire? Quando uno va bene lo stesso, che problemi ci sono? Non ci dobbiamo andare a fare le filate di moda noi. No, però diciamo che se uno si sente più leggero, cammina meglio anche quando fai strada oppure quando fai scale, queste cose così, no? Non è che devi correre, assolutamente. Camminare, certo, non camminare piano, no? Se no, inizio, non devi fare 50 km al giorno, e invece ne fai meno distanza, fai meno percorso, e un pochino più veloce, e così, va bene, altro che, ma io me l'ho proprietato che dovevo scendere a 70 km, invece sono arrivato a 75, dopo me l'ho chiamato. c'è altro, il peso tuo è quello. Io quando vado via a Pasqua sono sceso a 75, mi sentivo male, sempre capogiro, no, non ti danno, ma cosa, no, ho detto, boh, il mio peso è quello, 80 kg, mi tengo sempre col peso, non bevo roba pesata, non bevo super alcolici, non bevo niente, quindi no, il mio vinello mangiando me lo faccio, perché il vino rosso io tutti i giorni me lo devo fare, anche perché io fumo, quindi per le arterie, però anche se esco fuori no, non me la fotti nulla, ma e vedi di vedi passati di birra, di vino in campagna, no, non mi interessa a me. Finiti i giorni tempi, vero Fra? No, io lo sto facendo perché a me mi hanno mandato, anche adesso mi ha mandato, ho fatto tutti gli analisi, mi ha mandato dal diabetologo, perché c'è una glicemia un po' alterata, e quindi lì ti dicono, intanto non so cosa mi dicono quello che ho detto l'altra volta, però prima pesavo 94 kg pesavo, quando io stavo lavorando, no. E poi ho dimagrito e sono sceso adesso a 85 kg, però piano piano sto sempre scendendo, piano piano, ogni giorno no, ma penso che il risultato lo vedi a fine mese, lo vedi. E per non andare in diabete bisogna far abbassare la glicemia, avanti giù. Sì, beh, appunto, è quello è il fatto. Sì, infatti, camminare, per quel fatto lì, va molto, molto bene, perché lui ci calorie, dunque, abbassi, certo, va benissimo. Sai cos'è, noi sappiamo che bisogna fare così, però siamo padroni, non c'è da fare. Il modo è bene, no? Non te la mettere se hai dimagrito solo due figli, perché non è che devi dimagrire tutti in una volta, no? Perché se ti dimagrisci tutta una volta, poi ti devi quindi i figli che prendi. Cioè che bisogna prendere poco, però sempre facendo calare il peso. A volte un'ora e mezza la settimana, ci vuole tempo, è ovvio, questo ci vuole tanto tempo, ovviamente. Però è così che poi ti mantieni, perché se no poi ti riprendi di nuovo tutto il peso che non prendi tutta la volta e non lo prendi subito. Invece facendo così, no? Facendo così rimane proprio sempre bello, in forma, eccetera. Avanti qua. Cioè, avanti qua. Sì, ma infatti anche il dietologo non te lo dice, no? Non devi scendere in fretta. Scendere piano piano. Insomma, piano piano, io mangio molte verdure, e come ti agite va giù l'ame, fra, tanto ho mangiato un po' di insalata e boh, non me le cose, se c'era lo sformato o qualcosa del genere, invece stanotte c'è un po' di pesce e quindi ora mangio un po' di più, però sempre roba senza esagerare, capito? Io più di quello non posso scendere, perché altrimenti non riesco a star bene, non c'ho forza, non c'ho niente. Sono sceso a 75, io sono arrivato Giulio, e non stavo bene, assolutamente. Ho sempre detto capogiro, quando mi alzavo, ho detto, io giù vado morello, me la fottenuta. Qua c'è un alcaneo, sono tutto abbastanza robusto, quindi già va bene. 85 anch'io fra peso, forse tu sei più alto anche, quindi alla fine va bene il tuo peso. 94 era troppo, però 85 già va bene. Sì, va bene, però se riesco a scendere almeno 80, perché la dottoressa mi ha detto di scendere anche sotto gli 80, ma non molto. Però se ci riesco va bene, se no se arrivo, quando arrivo a 80 me li tengo in un bilico, me li tengo, perché di più non voglio scendere. Fra, anche fuori parti, capito? Anche fuori parti, io quando lavoravo un po' così la mattina, magari prendevo un caffè prima di partire, poi arrivavo al lavoro, volevamo, dai, possiamo fermare 10 minuti, gli facciamo quindi caffè, la pasta, verso le 10 il panino, con la lattina della Coca-Cola, della lanciata, capito? Io bevo molto, mi piace molto il tè freddo, il tè freddo, la lattina. E poi sai, quando finivamo a lavorare, che ora sono le due, io qui già il verde diceva va bene, ma io fermate che tutti a Bandeggi ci facciamo un aperitivo e quindi iniziarvi o magari un aperitivo e assaggiarvi le noccioline, assaggiarvi quello, assaggiarvi quell'altro, capito? Tutte calorie che ti entrano, è lì il problema. Io stavo leggendo l'altro giorno un vino, un bicchiere di vino fuori pacco e Gante ha mangiato un piatto di bassasciutta, cioè allucinante, capito? Quindi bisogna stare attenti a queste cose, non approfittarne fuori pacco, soprattutto i dolci, dolci, dolci, dolci, dolci sono la morte. Per noi che siamo già grandetti bisogna stare attenti, soprattutto la glicemia, perché ti frega, infatti non è che ne mangio molti dolci, se ci sono vabbè li assaggio, però non... sono famiglie che tutte le domeniche, le paste, tutti i giorni la pasta, le torte durante la settimana, balle e poi va, no, no. A me queste cose non ce n'è, vai giù. Vabbè, no, io ce l'ho memorizzato, uso le mie ore in 27, poi se devo uscire dalla 27 e andare a ascoltare le bande amatoriali, che sto molto in ascolto con questo, invece di attaccare quello grande, allora esco dalla memoria e vado a sintonia continua col selettore di banda, col down e up, capito? Però ce l'ho memorizzato dal canale 1 a tipo barracchino, dal canale 1 al canale 50 mi pare, una cosa del genere. Va bene, avanti Franco, ma dov'è? Ehi, fra un po' ce ne andiamo, che ore sono? Riesci a vedere? Già le 8:20 so, altro paio di passaggi, poi andiamo a sistemare il cagnone e poi se vedremo questa Italia, vedi? Sì, anch'io nel 440 ce l'avevo memorizzato tutti i canali. Quelle storie che non riesco, non mi ricordo come si fa. Lo sapevo, però poi me lo sono dimenticato, dopo anni. Quello è uguale al 440, sino al canale 9, ok? Sino al canale 9 il procedimento fra è uguale al 440, preciso, non devi fare niente. Esci, sintonia continua, metti la frequenza nel display, arancione, memoria in ingresso, nuovamente UFOA, e te lo memorizza, dall'1 al 9. Quando tu vai a memorizzare il 10 ti appare lo split. Allora cosa devi fare? Devi fare lo stesso procedimento tenendo premuto dove c'è scritto A barra B, ok, A uguale B, devi tenere premuto quello e con l'altra mano dal canale 10 al canale 20, anche se ti legge, se nel display ti appare la scritta split non entra in funzione, se tu tieni premuto A uguale B, mettendolo in memoria. Dal canale 21 in poi ti appare l'asterisco, la stelletta, e non c'è più bisogno sino al canale 30. Tanti anni fa, quando c'avevo il primo che ho avuto, quello lì me lo memorizzava, me l'aveva detto Vanino come si memorizzava, e l'avevo memorizzato tutti. Poi, alla fine, tanti anni che dimentichi di tutto. E una sera ci provo, e non so niente da fare, ci provo. Te lo metti in macchina, vieni a trovarmi, te lo memorizzo e poi andiamo, ci prendiamo l'aperitivo e te andiamo. Anche di mattina, se sale a Sassari, non c'è problema, è facilissimo. Però l'importante è che dal canale 9 in poi, quindi se tu vai a memorizzare il 10, devi tenere premuto A uguale B e poi fare il solito procedimento, memoria in, eccetera, sino al canale 20, dal canale 20 in poi sino al canale 30, qua c'è 30 memorie, più lo 00, perché io facevo dall'1 al 30, nello 00 mi mettevo il canale 45, capito? Dal canale 20 in poi, dal 21 al 30 non c'è bisogno di tenere premuto A uguale B, se no non te lo memorizza. Tu vai a schiacciare, la memoria te la dà, vai a schiacciare e ti fai split, capito? Invece in quel caso lì blocchi lo split perché le stai dando A uguale B, quindi stai configurando tutte e due i VFO, sia quello A che quello B. Quando ne hai voglia lo metti in macchina e te lo faccio io, se no ti muovi, ti appende e te lo vai giù. Vai giù. Ok, certo. No, adesso sono con memorizzato, adesso sto andando con memorizzato. Ma questo è memorizzato per la 27, è memorizzato fino al canale 75. 27805. Poi gli altri fino ad arrivare al canale 100 sono per i 40 metri. Ho memorizzato. Ma incominciando da 7060, poi 65, 70, 75, 80 e così via. Poi quando c'è l'anno qualcuno nella frequenza intermedia, anziché 75, ad esempio, 67, 78, allora uso la modalità UFO, per cui va bene lo stesso. E così, sì, qua è al limite proprio, quasi alla soglia degli inizi, dai, e ho memorizzato come 27. Se serve più che altro per ci vai veloce, ci vai, dai. canali memorizzati, e poi alla fine 30 canali non ti servono di memorizzare, basta memorizzare solo quelle che ti servono. Sì, infatti in estate quando c'è propagazione magari vado spesso canale 52, 27, 57, 55, perché quello lì è il canale monitor nazionale, diciamo, per quando c'è la propagazione, eccetera. Comunque dal 27, 500 e qualcosa, poi, lì è dove c'è la massima affluenza dei TV quando c'è propagazione. Infatti alle volte è anche difficile entrare, perché c'è tante di quelle chiamate anche dalle parti d'Italia e d'Europa, e dunque è difficile alle volte. Se non hai un pochino di forza, difficilmente puoi riuscire a entrare. Avanti, qua. Che nome, ma questa 40 è un 3 conversioni, quindi io ho le memorie come con la sintonia continua dall'1 al 50, poi esco dalle memorie, vado in VFOA, ho i 40 metri di solito, ma vado col down e up e me ne vado dove voglio. Nel VFOB posso fare qualsiasi altra cosa, posso mettermi qualche altra banda, capito? Oppure mettere nel VFOA mettere i 40 metri, nel VFOB mettere i 20 metri, gli 80 metri, non è che non ne ho memorizzato io di HF, anche perché non mi servono, vabbè, a me non mi servono, giusto? Accendo l'altra e vado con l'altra, però se voglio ascoltare esco dalle memorie e vado dove voglio, non ne ho memorizzato di niente, solo la 27 per comunità, capito? Perché a volte ti chiedono, passa nel canale 30, sì, è la frequenza che è, allora c'è scritto 30 è la frequenza a fianco, capito? La comunità è quella, quindi vabbè. Cifra, ricordati, dall'1 al 9 puoi memorizzare tranquillamente lo stesso procedimento. Esci WFO normale, metti la frequenza e poi fai memoria in, che è l'arancione, e di nuovo WFO, e ti dà la memoria che tu hai inserito. Dall'1 al 9 però, dal 10 in poi devi tenere premuto A uguale B, se no ti appare lo split, te lo leggi lo split nel display, però non entra in funzione perché stai praticamente memorizzando tutte e due, sia WFOA che WFOB, perché lo split praticamente salta da un WFO all'altro, capito? Vabbè, poi se tratta, se non ci riesci passi qua e lo facciamo assieme, se scendo io lo facciamo lì, non c'è problema. Va bene, avanti Giulio. Sì. No, ma io ce l'ho, infatti memorizzato anche lo split, quando comincio ad arrivare a certi canali, e molto in alto però, allora c'è lo split, per cui va bene così. Perché così almeno ascoltano un po' se posso trasmettere nell'altro, volendo, se dovesse capitare l'occasione con un altro interlocutore, per cui lo split serve per quello, no? Trasmetti una frequenza magari ti ricevo nell'altra, serve per quello o qua. Beh, è normale che serve per quello, ce lo so, però tu lo puoi disinserire nel 440, lui gli appare, se va, tu vai a memorizzare non ti appare, tu vai dal canale 1 al canale 100, memorizza e non ti appare, lui dal canale 1 al canale 9 memorizza normalmente, dal canale 9 al canale 20 gli appare in automatico, gli entra in automatico, capito? E non lo può disinserire nelle memorie se non fa quell'operazione A uguale B. Sì, lo so, infatti entra in automatico, ma quando comincio a arrivare a 7000 e 7120, una cosa del genere, io un primi tre che mi sono messo ho memorizzato per prendere dei 40 litri, ma poi per il resto, ma comunque ormai nemmeno, non sto più ascoltando nemmeno 40 litri, qualche volta quando non c'è nessuno in 27 allora giro e ascolto. No, nel primo periodo diciamo che anche in 45 già l'avevo provato più volte, e passavo la mattina soprattutto perché c'erano dei radioamatori che andavano in 45 metri a farsi la chiacchierata normale. ovunque, dalla parte del primo di Torino, eccetera, fino alla Romagna e Sicilia, tutti più o meno con il segnale di Milano. A cosa bene, una volta battuto, in 40 metri a cosa bene, a cosa. Avanti, che ho qua. E tutte le manto per cosa non bene. Sono tutte sotto busto qui. Quindi 16, va, 7, 14, 21, 28, quindi accordano, accordano. No, no, ma non ho mai capito, se c'è una quella di Franco, il C80, tu lo puoi inserire e disinserire come quando vuoi, a lui no. Lui le appare in automatico quando va a memorizzare dal canale 9 sino al canale 20, le appare lo split in automatico, non lo può togliere se non fa l'operazione A uguale B, capito? Memorizzando i doppi VFO, allora non li entra in automatico, invece così li entra in automatico, non lo può togliere, capito? Perché quando schiaccia il PTT si sposta, va in split, mentre il 440 è diverso con tre conversioni, quella è due conversioni, il C80, capito? E quindi fa questa cosa. Noi invece lo possiamo disinserire, inserire, memorizzare dove voglio io, lo split, lui no, lui le appare in automatico, capito? Ecco perché deve fare quell'operazione. Infatti molti quando compravano la radio mi chiamavano e mi dicevano ma e mi si sposta le frequenze, cosa ti si sposta? C'è una scritta, qua c'è scritto split, sì, torna indietro, esci dalle memorie, tieni premuto A uguale B e rimemorizza, e faziano tutti così e non appariva più, capito? Appare ma non va in funzione. Vai bra. Capo. Sì, ne ho capito. Vabbè, noi vediamo. Per entrare sulle memorie qual è il tasto, il primo tasto? Per entrare? Sulle memorie. Sulle memorie? Praticamente tu devi avere, non devi essere dentro le memorie. Non c'è scritto memoria CH. C'è scritto VFOA o VFOB. Anzi, VFOA, perché su VFOB non ti memorizza. C'è scritto VFOA. Scrivi la frequenza, ti metti già nelle memorie il canale che vuoi, ok? Le memorie, ti metti il canale che vuoi, poi cosa fai? Schiacci memoria in, cioè memoria in ingresso al VFO e poi di nuovo VFO e ti appare il canale con la frequenza. Ecco, ok, che mi stanno chiamando, un attimo solo, ripeti giù. Ok, sì, infatti è così, è vero, così, e vabbè là, comunque, per quello, soprattutto era il primo periodo quando stavo studiando bene, no, ma adesso io lo conosco abbastanza bene, no? Problemi non ce ne sono. E dietro c'è anche la presa per poter mettere il registratore volendo, qua. Se uno vuole può registrare anche le trasmissioni che fai e che ricevi, perché dietro c'è la presa per poterlo fare nel 440. Sì, dove c'è scritto REC? Infatti, che è quello. Va bene, poi c'è un'altra presa che adesso non mi ricordo nemmeno com'è perché sono tanto senza guardarlo dietro e non mi ricordo, c'è un'altra presa, oddio, forse per il coso, per il VFO, no, per il VOX, forse mi ricordo, forse per quello, se ricordo bene. Il VOX ce l'hai io sopra il coperchio. Da lì il VOX, mentre il 140 e il 180 ce l'hanno nelle regolazioni dietro. Noi ce l'abbiamo sopra il coperchio, sopra lo smitter, da lì si va in funzione. La presa che c'hai dietro, quella 8 punte, femmina, quello è il cavetto ALC per l'amplificatore lineare, quindi per il DL922, capito? Ah ecco, sì, è vero, sì, il VOX è sopra, sì, col tastino che abbiamo sopra, è vero, sulla sinistra è sopra il coperchio, è vero. Questa radio si può mettere anche in pacchetti o qua, con computer. È un analogico, puoi fare, penso, mi pare, allora io con 440 facevo, sì, PSK31 mi sembra che facevo, una cosa del genere, però adesso ci sono altri modi che sono tutti digitali giù, non c'è più nessuno di chi. Ok, no, sono chiesto perché forse io mi ricordo, io già l'avevo detto, e io mi avevo, estrapolato il coso, come si chiama, il libro delle istruzioni dal computer stesso, e c'era un'altra cosa, aspetta, cosa era? Aspetta, non me lo ricordo bene. Forse era per il che si poteva fare per il ciclo doppio, solo per il ciclo doppio si poteva fare qua. Il ciclo doppio attacchi il coso, il jet va in ciclo doppio e lo puoi fare, certo lo puoi fare. Però sì, no, ma si può fare anche in analogico, PSK32, tipo sistema pocket, ma adesso è tutto passato, ci sono altri modi digitali, oramai gli HF è giusto, stanno uscendo tutti digitali, stanno facendo, capito? Anche quella che ho io, è così. Però a me non me la fotti nunca, io non agio di digitale nunca. Scusate, me l'ha detto Walter, perché io c'ho la scheda fonema. Infatti Franco gli ha fatto la domanda, ma la scheda fonema a cosa serve? Mi ha detto a me. E l'altra volta ha detto, la scheda fonema è stata messa per i non vedenti. Capito? Perché tu sei non vedente, no? Io sono non vedente, cosa faccio? Accendo la radio, per sapere dove è la radio, pigio. Capito? E mi dà. E in inglese, nella lingua insomma internazionale, ti dice in che frequenza sei, per quello è stata fatta. Vabbè, chi non la comprende, cosa vai? Avvisai che in frequenza sei. Vabbè, si dice 2-7, quindi 2-7-0-7-5-0-0, memorizza e fai 27-0-75.00, ah ecco, sono nel canale 10. Bisogna vedere se c'è la frequenza che appartiene a canale 10, quello che io ho detto a volte. Appunto, avanti giù. Ok, uno che non è vedente, è chiaro che la frequenza si risuglia, no? Visto che deve usarlo così, si risuglia, è ovvio, se lo chiedete, è cattiva. No, ora poi bisogna che usata, è cattiva. Allora io, adesso ti racconto la storia di una persona non vedente. Tanti anni fa, quando io ancora facevo l'elettricista, qua, a Partamona c'era un tendone grandissimo era, ed era partente dal DPO era questo tendone qua, e facevano le manifestazioni musicali, eccetera, no? Ma durante la settimana, anche 2-3 volte la settimana, e c'erano queste feste, eccetera. Abbiamo accompagnato io e l'autista di Piu, avevamo accompagnato questo vecchio, che era quello che una volta a Sassariera in Piazza Sola, che c'era un edicola in Piazza Sola, era uno che lo vedeva, e quello si intendeva molto a contare il piano. L'avevamo accompagnato lì a Pratamora, e poi al ritorno l'abbiamo portato a Sassari verso le 10:30, una cosa così, di 8 al buio, e l'abbiamo lasciato al corso, perché è voluto scendere lì, al corso, ha detto, noi scendete a me, mi portate fino all'altezza del civico, al corso, e dopodiché, lì ce l'accompagniamo a casa, lui stai pensando, è un vedente. No, non c'è bisogno, assolutamente, voi mi fate scendere lì, mi fate scendere lì al civico e io prendo via il Duomo e vado a casa. Pensa un po', che il periodo via il Duomo c'era anche la strada tutta aperta, si passava giusto un uomo a fiancheggiare un muro con poi c'era una specie di ringhiera fatta in legno per non cadere nel polpotto, perché c'era la strada aperta. Beh, l'abbiamo seguito a piedi, l'abbiamo seguito dietro e ha rifatto a casa sua tranquillamente, quest'uomo non voleva niente, questo niente di niente, servizio qua. No, ma sono pazzeschi giù, sono pazzeschi perché io penso che vadano intuito, non lo so, ho talmente l'abitudine, non lo so, perché anch'io anni fa ho assistito a una cosa del genere, ma come fa lui a sapere che è arrivato a casa? E vanno a intuito, non lo so, sono talmente abituati a una cosa pazzesca. Io vicino a casa, nel marciapiede, senza gare, senza nulla, c'è il baccolino bianco, tranquillamente, sa dove deve camminare, sa arrivare all'edicola, entra, si imbiglia un giornale, dorre sci, un giornale, poi non glielo preso, se arriva forse non è per lui, magari è per la moglie, non lo so. Tutte le domeniche mattine lui scende qua vicino a casa, l'altro palazzo che c'è, va all'edicola, compra il giornale e torna a salire. Sempre l'atto marciapiede, però sono talmente, hanno qualcosa che le permette di muoversi così dopo magari tanti anni, capito? Che c'è con la nascita, è talmente l'abitudine che ha che quello non c'entra a fare. Bene, dai, adesso che c'ho il mic, sono già le 8, io vi saluto, grazie delle due chiacchiere, così porto il cane e salgo un tempo per sedermi a tavola e guardarmi la partita. Ciao Franco, ciao anche a Walter, se sei ancora in ascolto, chiunque fosse in ascolto, ciao anche a te Giulio. Ci sentiamo domani, ok? Ciao a tutti, vai Franco. Ciao qua, buona passeggiata, buon tutto, dai, ce la riascoltiamo, tutte le prossime. Ciao, avanti giù. Ok, ciao qua, ciao. Grazie per la chiacchiera, dai, ci sentiamo domani. Sì, ma è così fa, queste qui hanno possiedono un certo senso queste persone, io ne ho conosciuto diversi perché ho fatto anche di Rabuglia, ad esempio il via 4 novembre a Santa, su in alto, poi alla fine di via 4 novembre ci sono due palazzine e sono quelle lì, le case che avevano dato tutte le 920 che avevano dato. Ma tu dovevi vedere, io lì mi ricordo tantissimi anni fa, allora si usavano ancora le sedie, quelle fatte in paglia, no? Si usavano, mi portavano delle sedie magari da riparare, io le riparavo e poi mi chiedevano, ma me le può far divertire? Sì che le posso far divertire, c'è una persona, o più di una persona che le faceva queste lavori qua. Mi riportavo a quest'uomo in via 4 novembre, sulla sinistra, poi alla fine di via 4 novembre. Ma tu dovevi vedere il lavoro che faceva, impagliava la sedia di una persona, una perfezione straordinaria. Ma ce n'era più di uno che faceva questi lavori in quel palazzo, perché erano due palazzi, uno di seguito all'altro. Certo. C'era uno che lavorava al legno, ed era il padre di un medico. Era, e lavorava in legno ed era gente di tutto. Quindi il padre dentro era in cantina, aveva le macchine e tutto, c'aveva, ma guardate, non macchine grosse, macchinette per tagliare la legna, queste cose qua, c'aveva quasi tutto. Ma tu devi immaginare, devi vedere cosa che lavoro faceva questo uomo. Cioè faceva lavori micidiali. Poi ne ho conosciuto anche un altro che era CB. Era, si saldava il PL, si faceva tutto lui si faceva, con i guanti, aveva i guanti di amianto, di quelli per imbruciarsi, aveva, e si faceva, si saldava anche il PL. Sì, lo so di che stai parlando, c'è quello di sotto, un certo signor Antonio, già avevo parlato tante volte con lui, avevo parlato. Sì. Anch'io ne ho conosciuto, ma ero un bambino, ero un ragazzino ancora, quando ho conosciuto un certo maestro Sabio, a Sesta di Vecchio, lo vedevi facendo falegname, completamente secco, e facendo il falegname, e anche lui, caspita, era un rischio grandissimo con la macchina, con il rischio di mettersi le mani nella macchina, soprattutto nella pialla, eppure mi faceva questi lavori, chiaramente non potevano essere perfetti i lavori che faceva, però li faceva, altro che se li faceva, aveva i suoi clienti e lavorava ed era completamente secco, me lo ricordo benissimo, il maestro Fabio, un uomo da dove stato mio padre era, allora io l'ho avuto in quel periodo 10-12 anni, una cosa del genere. Lavorava in quella piusa che scende da piazza del Torrento per scendere giù alla stazione, dritto, in via Gasometro, mi sembra che si chiama con la via lì. E li faceva i lavori, altro che se li faceva. Li fanno. Purtroppo loro hanno un'area sua che toccano solo loro. se ci vai, gli sposti la roba non la trovano più, eh. Capita, ma quanto è l'orologio? Avevo un orologio che c'era, un computerino di vetro che si apriva con la cerniera, cernierabile, questo. Apriva questa cosa e toccava le frizze, non so, toccava i numeri, eccetera, e ti dicevano che era. Addirittura come c'erano i soldi di carta, allora c'era la lira. Beh, lui mi conosceva, altro che, per la grandezza probabilmente, mi conosceva. Sai, c'era quelle 10.000 lire grande, te le conto in una volta. Poi c'erano le ritagli più piccole, le monete, le banconote più piccole. E lui magari mi conosceva dalla grandezza, che ne so, un altato. Sì, quello già è vero, perché c'era mia nonna, la madre di mio padre, che era cieca, e conosceva i soldi, toccandoli in mano, sapeva quanto ti stava dando. Sì, hanno un intuito e un certo senso particolare questa gente qua. Hanno, guarda, soprattutto il tatto, non c'è problema. Ciao, dai, ci sentiamo, buona cena e buona visione, a me non piace guardarlo, vabbè, niente, ci sentiamo nel prossimo, ciao, ok, ciao.